Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, non credo che siano dei lettori indefessi, ma certamente saremo tutti amici dei Simpson, la leggendaria famiglia che dà voce all'americano medio e capaci anche di sorprendenti e fulminanti intuizioni e iniziative. La serie dei personaggi creati da Matt Groening è giunta ormai alla 30ª edizione e ha suscitato, anche per il successo planetario che ha conquistato, grande curiosità presso gli intellettuali, che per esempio ne hanno analizzato le implicazioni filosofiche. Adesso uno studioso italiano, uno storico dell'Università di Catania, affronta un tema particolare nel libro I Simpson e la storia, viaggio nel tempo a bordo di un divano, è pubblicato da Sironi, 204 pagine, 19 euro. La storia è molto presente nelle puntate dei Simpson, in particolare la storia contemporanea. Naturalmente la famiglia gialla non vuole insegnare la storia, ma ci permette di cogliere una lettura della storia che può rivelarsi molto popolare presso la famiglia media, non necessariamente soltanto quella americana. E allora sentiamo l'autore che cosa ha scoperto da questo viaggio nella filosofia della storia versione Simpson. Buonasera Giancarlo Poidomani. Buonasera, salve, buongiorno a lei. Giancarlo Poidomani, questo libro sui Simpson, lei scrive che ci dice molto sul senso storico comune e diffuso. In che senso i Simpson sono dei filosofi della storia? Sì, più che filosofi della storia, diciamo, ci dicono molte cose della storia contemporanea. Ci dicono molto intanto dell'immaginario diffuso, cioè di quello che la maggior parte delle persone, quelle magari che non leggono gli articoli sulle riviste storiche o quelli che non leggono i libri di storia, magari hanno come idee del nostro passato più o meno recente, per esempio importanti avvenimenti, la Seconda Guerra Mondiale, la guerra del Vietnam, il proibizionismo o per esempio la fondazione degli Stati Uniti d'America. E lei scrive anche che i Simpson vivono ed esprimono un loro secolo breve, una loro versione di certo. Quello che è stato chiamato il secolo breve. Ecco, qual è certo. Il secolo, in che senso il secolo breve dei Simpson è diverso? Che cosa c'ha il secolo breve, allora, dei Simpson? No, il secolo breve dei Simpson non è diverso, è proprio interessante proprio per questo, perché il secolo breve è anche dei grandi storici, a partire da quello che ha inventato questa fortunatissima espressione, che Eric Hobsbawm, che è stato un punto di riferimento della mia riflessione sulla storia e sui rapporti tra i Simpson e la storia, perché se ci pensiamo bene noi nei Simpson troviamo molti personaggi che rappresentano degli eventi, degli avvenimenti cruciali del Novecento, cioè quello che sarebbe il secolo breve, a partire dal nonno Abram, è un reduce della Seconda Guerra Mondiale, il direttore della scuola, che è un perdente come personaggio, Skinner, è un reduce del Vietnam, dell'unica guerra, dicono a volte, persa dagli Stati Uniti d'America, ma poi troviamo il proibizionismo, troviamo gli anni 60, la controcultura, con un personaggio che secondo me è molto positivo, è la mamma di Homer, Mona Simpson, che è una appunto che ha fatto gli anni 60, che è stata a Woodstock, che ha vissuto diciamo quel periodo d'oro per la storia degli Stati Uniti, ma io penso in generale per la storia occidentale del Novecento. Uno dei temi più controversi del dibattito attuale, del dibattito negli Stati Uniti, è quello delle armi, che ricorre spesso nei Simpson. Certo, e non poteva non essere così, perché i Simpson sono uno specchio davvero fedele della società, in generale della società contemporanea occidentale, in particolar modo naturalmente della società americana, e il tema delle armi, dell'uso e dell'abuso delle armi ritorna spesso nei Simpson. C'è una puntata in cui Homer si appassiona, ecco, no? Si lascia sedurre dal potere magnetico, no? Del possedere un'arma, e quindi va in un negozio, in un'armeria, e gli dicono però lei non può avere subito una pistola, deve aspettare, dobbiamo fare delle indagini sul suo conto. Allora lui aspetta, non so se deve aspettare 24 ore, 48 ore, dopodiché ritorna all'armeria, che si chiama Armeria Bagno di Sangue, e il commesso gli dice: ma lei ha aggredito un ex presidente, anzi un presidente degli Stati Uniti, e lui dice ex, perché effettivamente in una puntata Homer ha preso a cazzottate Bush senior, no? E poi altre cose, naturalmente ha guidato ubriaco, insomma varie cose. Dice: ah sì, ma allora, insomma, Homer si preoccupa, allora non me la danno. No, dice, lei può avere solo fino a tre pistole. un altro personaggio importante che Homer incontra è quello che vede nel passaggio che adesso vi propongo. Allora Batista non c'è più. Tu lo sapevi? Non ne avevo idea. In questo caso portaci da chiunque sia il capo. Compañeros, nuestra nación está en bancarrota. Non c'è riesta che abbandonare il comunismo. Presidente, tres hombres quieren verla. Dicono de tener un trillone de dólares. Ay, caramba! Oh, allora l'isola non è in vendita, eh? Mi dispiace. Ci potrà permettere almeno di vivere nel suo paradiso socialista. E sta hablando de Cuba? Esattamente. Ecco qui Homer addirittura ha incontrato Fidel Castro. Sì, ha accompagnato il suo principale, Banz, che aveva ricevuto alla fine della Seconda Guerra Mondiale una banconota, ora non ricordo se era da $1 miliardo, che era interessante. Poi questa cosa per esempio non l'ho scritta nel libro, perché poi la cosa bella anche di questo libro è che poi anche dopo ho trovato delle cose che ancora non avevo trovato dopo averle viste queste puntate anche 6-7 volte, e cioè era sostanzialmente la moneta, erano i soldi con i quali gli americani dovevano finanziare il famoso European Recovery Program, cioè il piano Marshall, e questa prima cifra, diciamo, se la sarebbe intascata Banz, sostanzialmente involandola alle casse americane, e quindi lo scoprono, il fisco americano lo scopre e quindi va da Banz perché rivuole questi soldi. Allora Banz scappa e va a Cuba, e Fidel gli dice giustamente: i nemici dei miei amici sono i miei nemici, no? E quindi li accoglie benevolmente, ma poi in realtà solo per fregargli la banconota, e poi li mette su due pneumatici, i famosi Balseros, che richiamano tra l'altro un evento tragico della storia di Cuba, cioè quello dei tanti che fuggirono dalla Cuba castrista verso Miami, spesso proprio a bordo di zattere improvvisate che poi erano dei copertoni di camion, come fanno Homer e Banz scappando da Fidel Castro. Nel suo libro lei spiega che questa serie è l'espressione dell'America media, piccolo borghese, di una città il cui nome è comune ad altre 70 città americane. Ecco, da quel punto di vista, come vedono il mondo i Simpson? Sono attrezzati per capire il mondo? Allora, in realtà Homer, diciamo, spicca, come sappiamo, per la sua grandissima ignoranza, una grandissima ignoranza anche geografica, perché noi sappiamo che in America se c'è un punto debole dell'istruzione americana è proprio la geografia, è proprio quello che diciamo riguarda il resto del mondo. Ahimè, lo ha dimostrato anche George Bush Jr. quando all'inizio non sapeva bene neanche dove si trovasse l'Iraq. Diciamo che nei Simpson c'è qualcuno che compensa, che è Lisa, che invece è una secchiona, che invece è una aperta, e diciamo che in fondo nei Simpson noi troviamo un po' tutta l'America, troviamo l'America, diciamo, quella più appunto della provincia, dell'America profonda, ignorante, magari anche un po' razzista, come Homer, e questo anche pressappochista sul lavoro, sul luogo del lavoro, ma troviamo anche una rappresentazione positiva dell'America, non solo tramite Lisa, che è la secchiona, l'ambientalista, quella che rappresenta la cosiddetta società aperta, come dicono i filosofi, ma anche Bart a volte in fondo si presenta come un personaggio positivo. Perché cosa hanno votato i Simpson secondo lei, per Trump? Allora, guardi, secondo me, no, chiaramente Marge ha votato per Hillary, e c'è anche un elettorale a favore di Hillary fatto proprio dagli sceneggiatori e dai disegnatori dei Simpson, era un endorsement chiaramente a favore di Hillary, dove sostanzialmente Hillary minacciava il marito che, insomma, se non votava Hillary la sera, insomma, ci sarebbero stati problemi nella camera coniugale. Io penso che sostanzialmente Homer, più che un a volte sembra il classico elettore di Trump, però in realtà più che un elettore di Trump io lo metterei da quelli che proprio non vanno affatto a votare, se non dietro le minacce di Marge, della moglie, che è sicuramente progressista. Faranno sicuramente un nuovo episodio. Grazie, sì. A Giancarlo Poidomani, autore dei Simpson e la storia. Buona serata. Grazie a lei. Da un'America appartata e piccolo borghese veniva la scrittrice statunitense Betty McDonald, vissuta tra il 1908 e il 1958, che fu una donna coraggiosa perché seppe trasformare in irresistibili libri la propria disavventura di donna in cerca di lavoro durante la Grande Depressione. Adesso esce da Astoria il libro La peste e io, tutti possono sopravvivere a tutto, 250 pagine, 18 euro, tradotto da Valentina Ricci. L'autrice è ricoverata in sanatorio per curarsi dalla tubercolosi, una malattia che all'epoca era veramente spaventosa, e la lunga degenza, in cui si doveva stare immobili a letto per settimane, non piega la scrittrice, che non si lascia impressionare dalla malattia e soprattutto non perde la propria lucidità, la propria umanità e il senso dell'umorismo. La vita, ci insegna la McDonald, può essere molto dura, ma tutto dipende da come la prendiamo. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Il 21 marzo è la giornata internazionale della poesia e qui la celebriamo cominciando a ricordare uno dei maggiori poeti del Novecento, Arturo Rimbaud, sul quale esce il libro di uno studioso italiano, Stefano Agosti, che esplora due tra le composizioni più enigmatiche della produzione del poeta francese. Il libro si intitola Rimbaud, le vocali e la parola notturna, è pubblicata dal Saggiatore, 74 pagine, 16 euro. Il sonetto preso in esame è quello delle vocali, che adesso ascoltiamo. A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu. Vocali. Io dirò un giorno le vostre nascite latenti. A, nero corsetto villoso di mosche splendenti che ronzano intorno a crudeli fetori. Golfi d'ombra. E, candori di vapore e tende, lance di fieri ghiacciai, bianchi re, brividi d'umbrelle, I, porpora, sangue sputato, risata di belle labbra, nella collera o nelle ubriachezze penitenti, U, cicli, vibrazioni divine dei verdi mari, pace di pascoli seminati d'animali, pace di rughe, che l'alchimia imprime nelle ampie fronti studiose, O, suprema tromba piena di strani stridori, silenzi attraversati da angeli e mondi. Oh, l'omega, raggio viola dei suoi occhi. Qui Rimbaud, come avete sentito, attribuisce un colore alle vocali e con questo il libro esamina le due quartine di Etel Almè, l'Almea, che sarebbe una figura di danza ma che richiama anche una visione notturna. E di Rimbaud, Aragno pubblica le lettere alla madre, In questi deserti senza strade, 258 pagine, 20 euro. Il libro è curato da Vito Sorbello, che ha tradotto queste lettere scritte in un arco di tempo che vanno tra il 1875 e il 1891. Arthur, che era nato nel 1854, come è noto, ebbe una vita avventurosa. Fin da giovanissimo fece molte fughe, si esaltò per la Comune di Parigi, si strinse d'amicizia con Verlaine, salvo poi litigare furiosamente al punto di rischiare addirittura di essere ucciso dall'altro poeta. E dopo aver pubblicato il suo capolavoro, Una stagione all'inferno, Rimbaud continuò la sua vita a girovaga, che dopo aver abbandonato la poesia lo porterà in Africa, da dove tornerà ammalato. Gli fu poi amputato una gamba per morire 37enne. E queste lettere ci danno una testimonianza diretta di questa vita girovaga e a tratti disperata. Scrive Sorbello che non restava al solitario, cioè al poeta, che distruggersi con l'azione, e il paese, cioè l'Africa, si prestava mirabilmente allo scopo. Nel paese del sole sovrano, nella vastità del deserto, Rimbaud corre alla perdita, la pura perdita di sé, nel silenzio e nella disperazione. Del resto, sempre in Africa, Rimbaud è consumato dalla noia che in quella situazione egli identificava con la vita stessa. Cinque lettere a sua madre sono quelle scritte da un celebre poeta siriano, Nizar Kabbani, morto nel 1998, e contenuto nel libro Le mie poesie più belle, tradotte da Nabil Salamé e Silvia Moresi per Juvence, 88 pagine, 8 euro. Cabani fu un autore molto noto nel mondo arabo, forse meno famoso in Italia, che adesso avrà l'opportunità di scoprirlo attraverso questa antologia. Cabani fu poeta naturalmente, ma anche un diplomatico, e fu molto popolare soprattutto tra i giovani siriani perché aveva dato voce alla loro aspirazione a una maggiore libertà anche in campo sessuale, cosa che lo aveva reso assai impopolare presso l'establishment religioso e borghese del suo tempo e del suo ambiente. Poeta dell'amore per eccellenza, lo definisce nell'introduzione Silvia Moresi, ma aggiungiamo anche poeta della denuncia verso le condizioni del mondo arabo, come dimostrano questi versi che vi propongo, che sono tratti da Il pane, la shish e la luna. Buongiorno mia bella, buongiorno mio santo tesoro. 2 anni sono passati, madre, da quando quel ragazzo ha preso il mare ed è partito per il suo mitico viaggio. 2 anni sono passati da quando ha nascosto nella sua valigia il verde mattino della sua terra, le sue stelle, i suoi fiumi e tutti i suoi rossi papaveri. 2 anni sono passati da quando ha nascosto nei suoi vestiti mazzetti di menta e di timo e un lillà damasceno. Qual è l'effetto di quel disco di luce sul mio paese? Terra di profeti, terra di gente semplice, masticatori di tabacco, mercanti di droga. Cos'è che provoca in noi la luna? Dimentichiamo la dignità e viviamo implorando il cielo. Ma cos'ha da dare il cielo agli sciocchi indolenti che muoiono se la luna vive e scuotono le tombe dei santi sperando che queste dispensino riso e figli? Essi stendono preziosi tappeti, si consolano con l'oppio, che noi chiamiamo destino e fato nel mio paese, nel paese della gente semplice. Infine segnalo un poeta italiano, Milo De Angelis, un autore che ha profondamente rinnovato la poesia italiana, del quale esce La parola data, interviste 2008-2016 introdotte da Luigi Tassoni per Mimesis, e su De Angelis è uscito anche un film documentario Sulla punta di una matita di Viviana Nicodemo, che entrambi costano 16 euro. I fondatori della poesia italiana invece troviamo nel libro di Marco Sant'Agata, che uscirà nei prossimi giorni, Il poeta innamorato, su Dante, Petrarca e la poesia amorosa medievale, pubblicato da Guanda, 224 pagine, 16 euro. La grande poesia medievale qui presentata in modo accattivante per tutti i lettori, che spesso, osserva l'autore, si pongono domande che gli studiosi e gli esegeti non considerano nemmeno. Al lettore di oggi Sant'Agata vuole dimostrare che gli autori medievali non dicono cose strane alla nostra visione del mondo e della vita. Insomma, per l'autore è possibile mostrare che essi sono implicati con la vita più di quanto non si crede. Allora Sant'Agata cerca di rispondere a domande apparentemente banali ma fondamentali per comprendere l'origine della vita nuova di Dante e del canzoniere di Petrarca. E sentiamo allora dalle prime righe del libro che scintilla scattò tra Dante e Beatrice. Di Beatrice Dante si era innamorato a prima vista quando aveva 9 anni, più precisamente quando lui era quasi al compimento e lei quasi al principio del loro 9° anno di vita. Era il 1274. Nel vederla era stato travolto da una passione sconvolgente, di quelle che fanno tremare i polsi, obnubilare la vista, perdere l'appetito. Ma era una passione solo sua, dalla quale la giovanissima Beatrice non era stata toccata. Benché in seguito l'avesse cercata più volte, tra loro non era nata una storia d'amore. Dovranno passare altri 9 anni perché Beatrice, 18enne, si accorga di lui. Nel 1283, proprio allo scadere del 9° anno, accadde un episodio che Dante racconta in uno scritto. Era la prima volta che Beatrice gli parlava e a lui parve allora vedere tutti i termini della beatitudine. Ebbro di felicità, sentì il bisogno di restare solo per pensare a ciò che gli era capitato e perciò si chiuse in quella camera nella quale un giorno si sarebbe ritirato a piangere la perdita del saluto. Con il saluto di Beatrice comincia la storia d'amore. Un altro gigante della poesia italiana è Giacomo Leopardi, al quale dedica un libro molto utile Alessandro D'Avenia, che è scrittore, sceneggiatore e insegnante di liceo. Il libro si intitola L'arte di essere fragili, come Leopardi può salvarti la vita, è pubblicato da Mondadori, 214 pagine, 19 euro. Perché utile questo libro? Perché D'Avenia si rivolge soprattutto ai giovani per smontare l'immagine di un Leopardi che per loro spesso è solo gobba e pessimismo. Leopardi, invece, scrive l'autore, ebbe presa sulla realtà come pochi altri, perché i suoi erano sensi finissimi da predatore di felicità. A guidarlo, aggiunge, era una passione assoluta. Ancora, fu un cacciatore di bellezza, intesa come pienezza che si mostra nelle cose di tutti i giorni a chi s'accoglie negli indizi, e cercò di darle spazio con le sue parole per rendere feconda e felice una vita costellata di imperfezioni. E quindi qui l'autore pone domande, soprattutto si rivolge a lui, a Giacomo Leopardi, ovviamente intercala brani del poeta nel suo libro, e legge con la sensibilità di cui fu capace Leopardi il mondo di oggi e le esperienze che in esso possono capitare ai ragazzi. E a questo punto il confettino. Ai lettori più grandicelli propongo una prima introduzione proprio a Dante col libro di Trifone Gargano, Dante, la commedia divina, pubblicata da Progedit, illustrata da Natalie Kroll, 142 pagine, 15 euro. Qui troviamo una sintesi attualizzata del capolavoro di Dante, con molti rimandi a personaggi dell'epoca, ma anche a esperienze attuali, per far cogliere la grandezza di un capolavoro che non tramonta. Prima di salutarci vi segnalo due appuntamenti. Questa era la Gazzaladra di Rossini, suonata dall'Orchestra della Scala nello storico concerto dell'11 maggio 1946, diretto da Arturo Toscanini, che segnò la riapertura della Scala, ricostruita dopo i bombardamenti della guerra. E questo è stato un concerto storico, naturalmente, che segnò forse l'apice della carriera di Arturo Toscanini, di cui quest'anno abbiamo già ricordato il 60° della morte, caduto in gennaio, di cui ricorre fra pochi giorni il 150° della nascita, che era venuta a Parma. Alla Scala ci sarà il 25 marzo un concerto diretto da Riccardo Sciai e una mostra che si apre il 21, curata da Franco Pulcini e Harvey Sachs. Io vi segnalo qui due libri. Il primo, libro fotografico pubblicato da Rizzoli e promosso da Salini Imprengilo, in vendita da domani. Il secondo è La raccolta delle lettere, curato dallo stesso Harvey Sachs, 600 pagine, 40 euro, pubblicate dal Saggiatore. Questa è una nuova edizione del libro, corretta e migliorata. È un libro che ci dà uno spaccato impressionante della storia di oltre mezzo secolo, perché qui troviamo nelle lettere Toscanini grandi politici, musicisti, tutte le sue amanti, che ci fanno comprendere la personalità complessa e veramente titanica di un artista che ha fondato la figura del moderno direttore d'orchestra. Come osserva Sachs nell'introduzione al libro, emergono qui vari elementi del carattere di Toscanini, che egli enumera in questo modo: lo smisurato orgoglio, l'incapacità di tollerare la compagnia degli sciocchi o dei leccapiedi, la repulsione per tutto quanto avesse anche solo il sapore di servilismo o di opportunismo, l'intolleranza verso il far musica in modo superficiale o trascurato, e anche la rabbia pura e semplice. Tutti elementi, aggiunge, che sopraffacevano talvolta la sua capacità di dare giudizi razionali. Però, aggiunge Sachs, quando i lati dionisiaci e apollinei della sua natura collaboravano, piuttosto che trascinarlo contemporaneamente in direzioni opposte, le sue osservazioni erano acute e sagge. E poi vi ricordo, secondo appuntamento, che il 24 marzo a Milano inizia la terza edizione di Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente, che si svolge negli spazi dell'ex Ansaldo in via Bergognone presso il MUDEC. Saranno presenti a questa edizione 200 case editrici in 160 stand, e c'è un ricco programma di eventi e di incontri che potete consultare sul sito www.bookpride.net. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.